bella giornata, che giornata di felicità. La mia bella donna se n'è andata, m'ha lasciato al fine in libertà. Son padrone ancora della mia vita e goderla voglio sempre più. Ella m'ha giurato nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è l'amore, cogliere il più bel fiore, goder la vita e far tacere il cuore, ridere sempre così gioco. Follie del mondo, vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più. Spesso la commedia dell'amore la tua donna recitar ti fa. Tu diventi allora il primo attore e ripeti quello che vorrà. Sul terzo atto scende giù la tela, finalmente torna la realtà. E la sua commedia dell'amor in una farsa trasformata.